tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche noi. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Inchiodalo bene con le catene che non ci viene più giù. Vieni sul Monte Calvario anche tu, andiamo a inchiodare Gesù. Amici e compagni di Radio Wombat, benvenuti ad una nuova puntata del notiziario anticlericale. Sito del circolo www.giordanobrunomi.wordpress.com. Calendario anticlericale 2022, info@siciliaLibertaria.it. Iniziamo dal Fatto Quotidiano del 8 febbraio, Germania. Non solo gli abusi sessuali, suscita molta insofferenza il prelievo imposto sul culto. Per la curia vale 2,7 miliardi di euro. E qui la Chiesa che si arricchisce alle spalle dei fedeli. Berlino, dopo lo scandalo degli abusi sessuali nella diocesi di Monaco, la Chiesa cattolica tedesca prova a mostrare un'altra faccia. Il sinodo ha approvato delle nuove norme, insomma vedremo come va a finire, se finalmente i tedeschi apriranno gli occhi sulla vera natura della Chiesa. Quotidiano Nazionale del 3 febbraio, estorsione al vescovo, 7 anni e mezzo a Don Euro. Luca Morini, ex parroco di Massa Carrara, detto Don Euro, perché solito chiedere frequenti somme di denaro per aiutare la Chiesa, condannato a 7 anni e mezzo per la presunta estorsione al suo ex vescovo e accuse varie. Occhio ai preti avidi. Dal Corriere della Sera del 3 febbraio, usò le offerte per i festini. 7 anni e mezzo al parroco Don Euro. Il parroco di Pontasserchio, paese della provincia di Pisa, quello di prima, e Don Luca, detto Don Euro, ha avuto il suo spazio anche sul Corriere della Sera. I suoi crimini sono noti in tutta Italia. Segnaliamo il libro di Igor Santos Salazar, Governare la Lombardia Carolingia, BL Editore. Ampio saggio storico che va dal 774 al 924 d.C., ovviamente. E diciamo che i misfatti della Chiesa che risultano sono quelli relativi alla servitù della gleba. È segnalato in particolare un documento relativo a una serva del Cenobio che se n'era andata con un uomo e quindi era sorta una disputa sul fatto che i figli della detta donna serva del Cenobio di Sant'Ambrogio erano anche loro servi del Cenobio di Sant'Ambrogio o no. Sorvolo velocemente sulle note barbare medievali come l'accecamento dei nemici politici citate più volte nel libro. Passiamo ai preti pedofili dal Rete l'Abuso. Abusi, ho commesso un errore. Vescovo di Bolzano ammette il caso di un prete americano trasferito in Italia. Era un pedofilo e se la faceva con dei ragazzi nonostante il fascicolo pesante che lo accompagnava. Insomma, l'ha spostato dagli Stati Uniti all'Italia per levarselo dai piedi, ma lui ha continuato con le sue pratiche pedofile. Allontanato sacerdote a Bolzano, aveva avuto un rapporto con un minorenne. Serve commissione indipendente sugli abusi. Questo Don Timothy è ormai famoso eroe al contrario dei due mondi. Sempre Rete l'Abuso. Quanti e quali tesori sta vendendo la Chiesa di Francia per risarcire le vittime degli abusi? Pare 20 milioni di euro siano stati trovati dalla Chiesa per ripagare le vittime degli abusi dei preti pedofili. Ne fanno ogni giorno di tutti i colori. In tutto il mondo la Chiesa ha nascosto casi di abusi sui minori. Serve un'indagine anche in Italia, da Rete l'Abuso del 4 febbraio. Il rapporto pubblicato in Germania sollecita un'analoga inchiesta anche in Italia. E passiamo a Ratzinger, protagonista su tutti i giornali. Pedofilia in Germania, vescovi contro Ratzinger, ora chieda perdono. Quotidiano Nazionale del 1 febbraio, pagina 16. Il Papa emerito e i casi coperti. Sempre in rete l'abuso contro i preti pedofili. La Chiesa Cattolica rivela enormi statistiche sugli abusi, ma è una goccia nel secchio, affermano i sopravvissuti. Da rete l'abuso del 1 febbraio. 360 casi registrati dalla rete l'abuso in soli 15 anni in Italia. La magistratura italiana faccia come in Spagna e altri paesi. Da rete l'abuso del 2 febbraio. Anche qui denunciamo questo incredibile attività oscena da parte di certi preti. E la Repubblica del 5 febbraio. Forza Nuova, clerico fascisti, il tesoro segreto di Fiore, con ampi riferimenti a preti vari, i ristori anti-Covid, pro vita e famiglia onlus di stampo ultracattolico che collaboravano con i neonazisti. Dalla Repubblica del 5 febbraio, pagina 21, Chiesa e fascismo, il clerico fascismo. Suicidio assistito, il tribunale condanna ancora la regione Marche, governata dai clerico fascisti. Il giudice ordina all'azienda sanitaria regionale di verificare le condizioni di Antonio, un tetraplegico che vive tra atrocissimi dolori. Intervenga il Parlamento. Abbiamo poi, bevo un po' d'acqua, arrivo subito. Arriviamo poi alle mie ricerche biografiche, bibliografiche antiche. Siamo nel 1500 a Milano. 20 dicembre 1568, giustizia fatta nel quartiere del Verziere, fu bruciato un frate eretico. 25 luglio 1569, sempre a Milano, bruciati un frate di Brera e un certo Giorgio Filatore, quali erano luterani. E i preti bruciavano vivi gli eretici. 1570, 2 agosto, ben 11 persone vengono condannate a morte per l'attentato contro San Carlo Borromeo, no? E quindi abbiamo un frate, 3 prevosti, un altro frate. Il più famoso è il famoso Farina, questo Farina, cui sono stati dedicati vari libri, che fu proprio l'attentatore contro il santo. Manara Valgimigli, nato a San Pietro in Bagno, Bologna, 9 luglio 1876, è stato un filosofo classico e il sito Wikipedia, la voce Wikipedia, ne segnala il fermo anticlericalismo. Sempre nel campo dell'anticlericalismo, il piccolo teatro studio di Milano e ha messo in scena uno spettacolo in cui ci si muove fra Leopardi e Giordano Bruno, entrambi ovviamente noti per la loro dissidenza religiosa. E passiamo alle disgrazie clericali. E c'è già accaduto il primo suicidio del 2022. Catholic priest found dead in a Makwenil lodging, suspected suicide. Insomma, in Kenya questo prete è stato rinvenuto morto nella sua canonica e la chiesa sospetta il suicidio. Abbiamo poi le disgrazie clericali, questo prete Novax ucciso dal Covid e non era vecchio, Un sacerdote genovese di solo 51 anni, contrario alla vaccinazione anti-Covid, Don Paolo Romeo, è morto per le complicanze del Covid dopo un mese di tragedia, di agonia in ospedale, dalla prealpina del 3 febbraio. Abbiamo poi, sempre sulle disgrazie, un terribile incidente stradale ha ucciso un cattolico di soli 37 anni, che lavorava per la Caritas Ambrosiana ed era molto noto in campo clericale. Altra disgrazia terribile in Messico. Pullman di pellegrini si ribalta in autostrada, 13 morti. Erano in viaggio verso il comune di San Giovanni de los Lagos, quindi invece di avere un miracolo sono morti tragicamente. Bene, leggiamo per concludere qualche detto anticlericale. Arrivo subito. che lo traiamo dalla mia collezione di detti anticlericali. Il guaio maggiore della Chiesa è il suo dogmatismo, la sua pretesa di regolare tutto, di stabilire tutto quello che è buono e quello che è cattivo, quello che è proibito e quello che è permesso. Eugen Drevermann, teologo tedesco. Da Bonaventura Finozzi, ex missionario, da 2000 anni l'uomo clericale legge il Vangelo e gli è servito solo a peggiorare. Benissimo, saluti a tutti alla prossima puntata del Notiziario Anticlericale. Tutti i bambini con i chiodini vanno a inchiodare Gesù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. E la Madonna, povera donna, andiamo a inchiodare anche lei. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare Gesù. Chiodalo bene, chiodalo forte, che non ci viene più giù. Vieni su Monte Calvario anche tu, che andiamo a inchiodare.